Buonasera, benvenute, benvenuti, grazie per la partecipazione. Questa serata è un po' particolare, però vi vedo qua e sono contenta. Il libro di stasera che presentiamo, anzi che presenteranno le nostre signore qui, è un libro di poesie, per cui a maggior ragione vi fa piacere vedervi qui, presso il Trevi Lab, l'organizzazione ovviamente della Biblioteca Claudio Augusta, che vi ringrazia di essere venuti. Come al solito devo parlarvi un po' delle nostre iniziative prossime, ovviamente poi vi parlerò anche di quelle di stasera, un po' velocemente. Parliamo del nuovo ciclo di conferenze, è una novità di quest'anno, il ciclo si intitola Noi e il denaro. E cominceremo il 3 febbraio con Storia e storie di monete e crediti, con Andrea Bonoldi e Marco Pugliese. Il martedì, come al solito, è alle 17.30 la conferenza, e mentre il secondo sarà più avanti e tratterà, andrà proprio nel pratico. Troppi debiti, strumenti e possibilità per ripartire, con Eleonora Maines, Ivo Morelato e Marco Pugliese. Quindi questo ciclo va ad aiutare a vedere come funziona la situazione finanziaria, sia dal punto di vista storico che anche, insomma, ai giorni nostri. Altra presentazione che abbiamo invece la settimana prossima è il 4 febbraio, La storia continua, con l'autore, che è Michele Rielli, e Valentina Cibin. Bene. Ce ne sono molte altre, ma passeremo magari a parlarne un'altra volta. Nel frattempo invece passiamo alla serata di stasera. Ovviamente sapete benissimo, il libro è E tutto tace, di Simonetta Lucchi, che ho il piacere di farvi conoscere. È accompagnata da Alessandra Stortortosa e vi auguro una buona serata. Grazie, grazie dell'introduzione. Buonasera a tutte le persone presenti, buonasera Simonetta Lucchi. Abbiamo concordato che ci daremo del tu, quindi molto, anche se Simonetta Lucchi è professoressa, docente, con tanta esperienza alle spalle, ha insegnato in molte scuole, anche al liceo classico Carducci a Bolzano, poi molti anni in Val Gardena, una parentesi piuttosto lunga anche in Germania, a Friburgo, quindi grande esperienza anche all'estero. Inizia a scrivere già da bambina, adesso sentiremo quello che ci racconta, già a 7 anni, e la cosa curiosa è che il libro È tutto tace inizia proprio con una dedica al suo maestro elementare. Maestro elementare che è stato un po' forse il pungolo che ha instillato in questa bimba l'idea di scrivere, l'idea che quella era la strada giusta. Io vorrei, Simonetta, che tu iniziassi proprio da qui, da questo ricordo così tenero del tuo maestro elementare. Sì, e buongiorno a tutti e grazie innanzitutto di essere qua. Io mi sento molto emozionata, insomma, perché mi trovo anche un po' tra amici, quasi persone che conosco da una vita e che ringrazio veramente di cuore di essersi presi veramente il tempo di venire ad ascoltarmi. È un grande, grande piacere, un grande onore che veniate, insomma, qua ad ascoltare le mie poesie, insomma, e anche la mia vita, perché in queste poesie c'è la mia vita. Non è un saggio, io scrivo anche molto saggi, spesso insomma saggi, scrivo anche per giornali, insomma ho vari, diciamo, registri di scrittura per pubblici diversi, però ovviamente la poesia ha un carattere diverso, ha un carattere più intimo e più profondo, insomma, sia diciamo nei contenuti che nella forma e in tutto quello che noi vogliamo trasmettere attraverso la poesia. Quindi venire qua è un po' scoprirsi veramente anche con fiducia, io dico, rispetto agli altri, perché non è facile. Devo dire, io sono anche una persona piuttosto riservata e sono arrivata tardi, io ho 61 anni, e quindi a pubblicare le mie poesie, che sono le prime, appunto, risalgono a tantissimo tempo fa, perché è stata la prima forma di scrittura che io ho avuto. Nel senso, prima di scrivere testi normali, compiti o componimenti nei quaderni, scrivevo poesie. Evidentemente era una forma spontanea, come forse è stata anche per l'umanità, diciamo, la poesia. E quindi, ecco, queste sono cose particolari, diciamo, sono occasioni particolari in cui ci si, ci si espone e diciamo e si diciamo si mettono un pochino diciamo alla luce tante cose della propria vita e della propria esperienza. Naturalmente in forma poetica, io essendo anche un insegnante di lettere, di storia dell'arte, di latino, chi mi conosce lo sa, insomma, che ho anche diciamo cambiato diversi tipi di insegnamento, ho insegnato diverse materie e quindi ovviamente fa parte anche del mio vissuto professionale. Io ritengo sempre che la spontaneità è una cosa ovviamente utile e ottima, però ci vuole anche competenza, insomma, nel fare le cose, per questo ho anche forse aspettato a pubblicarle. Quindi, diciamo, ecco questo, quando io ho deciso di realizzare questo libro, è stato proprio un modo come per dire, ecco, questa è la mia esperienza, questa è la mia vita, lasciamo quasi una sorta di testimonianza di quello che è stato fatto, naturalmente in prospettiva di fare ancora qualcosa, perché non è che sia finita qua. Ecco, questo è diciamo lo spirito con cui mi presento con questa mia opera che appunto si intitola E tutto tace. Torniamo al tuo maestro elementare. Sì, al maestro elementare carino. L'ho dimenticato in tutto questo. Sì. Allora, maestro elementare, dunque, perché la dedica al maestro elementare? Diciamo che io della scuola, essendo nel mondo della scuola da sempre, insegno da più di 30 anni, però ovviamente sono stata anche studentessa, sono stata scolara, ho avuto una nonna maestra, ho avuto familiari nel mondo della scuola, quindi è come se fosse la mia famiglia. Sappiamo che nelle famiglie ci sono cose positive e negative, non è che posso dire che sia tutto rose e fiori, insomma non ho una idea della scuola così idilliaca e così neanche dei maestri necessariamente, abbiamo tutti lati positivi o negativi. Anche questo mio maestro elementare, che si chiamava Cesare Guglielmo, che era un personaggio anche conosciuto, perché era maestro elementare, ma anche giornalista, poeta, ha pubblicato, aveva fondato due case editrici, era un personaggio comunque che ha partecipato insomma alla vita pubblica e culturale di questa provincia in anni importanti, perché erano gli anni 70, 80, anche 60, tardi anni 60. Quindi in un periodo in cui la nostra provincia, la nostra città, si creava anche una sorta di identità, in cui anche la comunità italiana si dava un'identità anche letteraria e culturale. Quindi ha vissuto tutta una serie di trasformazioni che sono quelle che abbiamo vissuto anche noi in quegli anni. Erano anni non facili, io ogni tanto ne parlo, gli anni delle bombe, erano gli anni del terrorismo, erano gli anni in cui si costruivano tante cose, insomma, fino ad arrivare poi al secondo statuto di autonomia, voglio dire, insomma, quindi tutto un percorso particolare. E questa persona, essendo un maestro elementare, ma anche una persona, appunto un giornalista attivo nella vita pubblica, come un po' sono io, quindi un po' ho preso questo imprinting di non essere solo legata alla letteratura, ma anche alla vita collettiva, e ho poi scoperto in vari modi, ma già durante diciamo le sue lezioni probabilmente ce lo trasmetteva, anche quelle che sono state le sue esperienze, le sue conoscenze con personaggi anche che adesso conosciamo come il poeta Caser, con cui lui conversava e racconta anche insomma queste sue conversazioni, questi suoi incontri, questi suoi scambi di opinioni e di idee, e anche altri collettivi studenteschi oppure associazioni di letterati. Quindi c'è anche un percorso di questo tipo. Ecco, questo maestro, comunque, dicevo, tornando alla cosa che non mi perdo, questo mio maestro, sì, è stato un personaggio con dei lati positivi, dei lati negativi, che però aveva una grandissima stima nelle mie capacità letterarie. E diceva, veramente aveva questa grandissima... grandissima stima, e continuava a incentivarmi nello scrivere. Io ero una bambina che non aveva molto fiducia in se stessa e prendevo le cose un pochino così, dico non sarà neanche vero, ma invece questo suo continuare e non so mettermi davanti alla classe a leggere le mie poesie oppure iscrivermi anche a dei concorsi poetici che io poi vincevo, no? Mi sembrava stranissima questa cosa qui, eppure li vincevo. Mi ha dato, ma negli anni successivi, fiducia. Non tanto in quel momento, probabilmente non ero consapevole, ma l'ho così sviluppato nel corso degli anni. Mi è rimasta, ecco, mi ha messo, diciamo, un seme che poi in qualche modo è cresciuto e si è sviluppato. E questo ritengo che sia una cosa importantissima. Cioè, se le persone ti danno questa cosa, è veramente una grandissima, una cosa importantissima, insomma, che al di là che la persona sia, diciamo, a tutto tondo stimabile, eccetera, no, anche le cose negative poi col passare del tempo si rivalutano e diventano anch'esse, diciamo, un patrimonio prezioso successivamente. Infatti questo filo che si crea tra educatore, quindi maestro, e l'allievo, il discepolo, in un certo senso, sì. No? Cosa che poi tu hai proseguito anche nella tua carriera scolastica, nel tuo modo anche di porti ai ragazzi, coinvolgendoli in tanti lavori, in tanti laboratori che prevedevano anche un coinvolgimento nell'attualità e nei temi sociali. Per esempio il libro Linea di confine, che chi lo vuole vedere è qui anche a disposizione sul tavolino, è adesso presente in tutte le scuole e tratta proprio il tema dell'identità, il che ne ha già parlato, ha già detto questa parola, identità, e il tema del confine. Un tema che ti è molto a cuore anche per le tue origini, della tua famiglia, quindi origini istriane e slovena, quindi un altro territorio molto, molto caldo. Sì, questo fatto delle origini ha segnato tantissimo la mia vita familiare, ma anche la mia vita, diciamo, come insegnante, il mio interesse per le lingue, ovviamente, e ritorna un po' in tutti i miei scritti, perché il libro Linea di confine era nato nel centenario delle celebrazioni della Prima Guerra Mondiale. È stato un progetto che è stato fatto al liceo, che avevo seguito, insomma, al liceo classico, e quindi lì siamo andati a elaborare, a trovare tante storie familiari che riguardavano proprio le storie dei confini, e lì casualmente mi sono messa anch'io in gioco insieme ai ragazzi, abbiamo raccolto tutte queste cose e per prima cosa, diciamo, sono andata anche a approfondire le mie storie familiari. Io, mia madre è di origine slovena ed è stata portata qui come profuga nel 1944, quindi all'interno di tutto questo vortice, diciamo, di ciò che è successo nel confine orientale, è stata portata a Bolzano insieme ai profughi Giuliano Dalmati, mio padre, che era di origine trentina, però viveva la famiglia a Fiume, è stato anche portato qua a Bolzano, quindi i miei due genitori si sono incontrati giovanissimi a Bolzano e si sono conosciuti qua, l'uno di lingua italiana e l'altra di lingua slovena, perché tra tutti i profughi, appunto, del confine orientale ci sono state molte persone anche non di lingua italiana che sono state portate in Italia, in qualche modo coinvolte in queste cose, e tante sono venute a Bolzano. Quindi, diciamo, la lingua che io ho sentito sempre in casa non era tanto l'italiano, che a me risultava quasi un pochino strano, era lo sloveno, inizialmente i primi anni di vita, che poi si è andato via via perdendo, anche perché purtroppo la comunità slovena, qui come andrò magari a raccontare, sottendo questa cosa all'interno di qualche poesia, la comunità slovena non è stata riconosciuta in Alto Adige, quindi si è andata sempre via via affievolendo e si sono perduti, ho perduto anche, diciamo, intorno a me le persone con cui potevo parlare. E quindi però questa mescolanza linguistica di queste lingue mi ha sempre molto affascinato, tanto che così istintivamente io, ad esempio, alcune poesie le scrivo anche in altre lingue, qualcosa scrivo in tedesco, qualcosa scrivo anche in ladino, perché col ladino poi ho avuto un'altra vicenda insegnando da tanti tanti anni anche in Val Gardena, ma essendo anche una lingua c'è anche il friulano, che invece era in qualche modo all'interno della parlata anche della mia famiglia, che proveniva da quei confini, quindi è di nuovo un altro filo conduttore, no? nella memoria e anche nelle parole, cioè nel significante, io dico, delle parole, no? In quello che c'è sotto, al di là del significato vero e proprio, no? Del suono, nel suono, nel ricordo, che è la parola stessa di ciò che evoca in noi, insomma, al di là del significato vero e proprio. Simonetta e io leggeremo alcune poesie, e la prima si intitola Verde. Non hai tenuto nulla per te, non un gioiello, un orecchino, una collana, una spilla, quella sì. Ancora la ritrovo, sul tuo abito verde, come un fiore, sempre quello, ogni anno a Natale. Tu maestra, tu contadina, tu che sapevi il latino, verde era il tuo vestito della festa, verde il mio colore preferito, verde la tua terra, verde il fiume che scorre, anche i tuoi occhi, che sono i miei. Quella sera, nonna, eravamo io e te nella stanza, tu sola, io sola. Non ti ho visto andare via, non mi sentivi. Come il tuo amato poeta, guardando quella bocca serrata, a denti stretti, guardando le mani gonfie che penetrano nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Questa poesia verde è dedicata alla tua nonna, la tua nonna maestra. Sì, ecco, questa è una seconda maestra, perché appunto un po' tutto il libro è dedicato ai maestri. Questa è un'altra maestra che, come l'altro maestro, è stata una maestra anche, diciamo, che ho apprezzato anche lei, diciamo, andando avanti col tempo, perché ha avuto una vita particolare, ma mia nonna appunto era anche una maestra, come dico, che proveniva dalla Slovenia, in realtà proprio dalla Valle dell'Isonzo, Alta Valle dell'Isonzo, il luogo dove si è svolta l'ultima battaglia, l'ultima delle battaglie dell'Isonzo, proprio con i gas e tutte queste vicende qua, no? Quindi famiglia slovene, quelle erano località slovene. Piccoli paesi, paesi poveri, paesi di contadini, quindi per questo dico tu contadina, mia nonna era quella. Però diciamo, in tutti questi travagli che hanno avuto, sia nella prima nella seconda guerra mondiale che io ho raccontato, mia nonna, diciamo, ha avuto una vicenda un pochino particolare, in quanto quei territori erano stati occupati dall'Italia, dai fascisti, insomma, esattamente come è stato occupato il Sud Tirolo, no? L'Alto Adige. Quindi da lì fino a Lubiana, c'era stato poi anche Lubiana, insomma, che è stata chiusa, insomma, è, diciamo, occupata e chiusa dal filo spinato, ma anche quei territori sono stati occupati dalla prima, insomma, la seconda guerra mondiale, dal fascismo, e anche lì è stato abolito l'uso della lingua slovena. Però loro avevano avuto in quei territori anche Caporetto, quindi erano già precedentemente profughi, erano già andati precedentemente profughi in Italia. Quando si erano rifatti una vita in Italia, dopo la tragedia di Caporetto, dove avevano perso tutto, perché è stato tutto raso al suolo in quella valle, erano stati mandati in Liguria, in Piemonte, tutti gli abitanti di queste valli, e poi quando Mussolini è salito al potere ha obbligato le persone a ritornare nella valle, insomma, nella valle dell'Isonzo, per ricostruire, per sminare, per sistemare il territorio. È stata una tragedia per loro, perché sono morti tantissimi. E comunque in questo periodo in cui loro comunque sono ritornati a casa, hanno ricostruito le loro case, il fascismo aveva imposto dal tedesco l'italiano, perché era territorio austro-ungarico, no? Quindi le scuole sono passate dal tedesco all'italiano, la popolazione rimaneva slovena, quindi sapeva il tedesco, lo sloveno e poi adesso l'italiano. In questi anni in cui il fascismo era rimasto al potere, è stato ferocissimo il fascismo in quei territori, è stato spietato, e queste sono altre storie che io racconto, perché non sento nessuno, non ho mai letto nulla in Italia su quello che è successo in certi territori, quindi anche questa è una testimonianza che voglio lasciare, quello che io so di queste cose, soprattutto nei confronti degli intellettuali, dei maestri, eccetera. Comunque mia nonna, che frequentava a un certo momento le scuole italiane, ha ricevuto una borsa di studio che offrivano per i più poveri, diciamo, per formarsi, perché avevano bisogno di insegnanti di lingua italiana in quelle che insegnassero l'italiano in quei territori. E quindi mia nonna è stata beneficiata con questa borsa di studio, per cui ha potuto proseguire fino quasi agli studi universitari, che era una cosa inusitata per quel periodo. E per questo dico, tu che sapevi anche il latino, ha veramente svolto degli studi, insomma, eccellenti, ed è diventata maestra. Quindi maestra e contadina, tu che sapevi perfettamente il latino perché lei conversava il latino, sapeva l'italiano perfettamente, il tedesco perfettamente e lo sloveno perfettamente, quindi tutto perfettamente, cioè questa perfezione linguistica che a me ha sempre molto colpito, perché nessuno poteva neanche pensare che lei non fosse italiana, perché era, aveva veramente la perfezione. E al tempo stesso questa sua umiltà, questo suo essere contadina, perché lei coltivava i campi, insomma. E quindi, vabbè, poi ci sono state tutte le vicende familiari che racconto in altre cose. Comunque lei poi è diventata maestra, sempre la maestra di Caporetto, vicino a Caporetto. E c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, in qualche modo. E quindi lei... è dovuta scappare perché i maestri che insegnavano italiano pur essendo sloveni venivano perseguitati perché venivano ritenuti magari collusi col fascismo, cosa che ovviamente lei poveretta poi si era occupata di tutta la casa, di tutta la famiglia, e in più però lei teneva le famose Katakombenschulen anche là. Io dico Katakombenschulen perché qui le chiamiamo così, però c'erano anche là. E quindi mia nonna effettivamente insegnava la mattina ai bambini, la sera teneva queste Katakombenschulen dove insegnava lo sloveno. Una forma di resistenza. Una forma di resistenza, sì, per insegnare proprio la lingua. Mm. Poi ha anche partecipato in qualche modo alla lotta partigiana, però nel momento in cui improvvisamente sono cambiati i confini, perché a un certo momento sono stati spostati i confini nel giro di pochissimo tempo, è stata anche lei, è stata incarcerata per quasi un anno, accusata di essere appunto collusa col fascismo, eccetera, quindi ha dovuto, insomma, vabbè, ha passato delle cose terribili e fortunatamente qualcuno ha testimoniato a suo favore del fatto che avesse tenuto queste Katakombenschulen e avesse anche tenuto dei partigiani in casa ospitandoli. Fortunatamente sono arrivate in tempo queste testimonianze, mia nonna è stata liberata, era ventenne, aveva già mia mamma che era piccolina, e mia mamma, mi ricordo sempre che mi diceva questo: ho visto arrivare la nonna senza vestiti, diceva, ho visto arrivare la nonna dalla strada per arrivare senza vestiti e senza scarpe, e poi il giorno dopo siamo scappati. E quindi poi in questo sono stati portati poi a Bolzano, dove mia nonna, sapendo esattamente l'italiano, ha esercitato qui per tantissimi anni alla professione di insegnante delle scuole elementari. E quindi questa è stata la sua vicenda. Lei è stata una persona sempre molto, molto umile, molto povera, come dico, il fatto che avesse solo un vestito è la verità, e ho voluto dedicare questa poesia verde alla sua terra, perché il verde è colore simbolo della Slovenia. E quindi, siccome siamo comunque, diciamo, sempre molto legati a questa terra, sempre, perché mia mamma sempre, mia nonna mi hanno tutti i giorni parlato delle tradizioni, eccetera, eccetera, l'ho dedicata a lei. Il giorno della sua morte, effettivamente è vero, eravamo solo io e lei nella stanza e le ho dato l'ultimo saluto, insomma. Grazie, questa testimonianza anche molto intensa. Un'altra poesia alla quale Simonetta tiene molto è Addio. Sei arrivata, bambina, confusa, spaventata, offesa. Porgevi il viso al freddo, alla pioggia. La bora nera ti entrava nelle ossa e nell'anima. Ostinata, ma fragile, ormai, per sempre. Risiera di San Sabba, Trieste, 1945. Una lingua diversa. Cercavi sguardi e parole. Una fotografia che ancora ritrovo. L'avevi con te. Quella che eri prima. Il tempo è passato. Sei tornata a casa. Rimane il dolore, la fatica, la paura. Mai spiegati, mai leniti. Siamo sempre noi, come allora, esuli. Ora sei libera. Un abbraccio, mamma, da quaggiù. Ecco, questa è una poesia che si connette naturalmente, essendo una dedicata alla nonna, una alla mamma. In questo caso la mamma, che è stata anche protagonista della vicenda che narravo prima, perché ovviamente mia mamma aveva 7 anni quando è scappata con la mamma per venire qua a Bolzano, ed è stata probabilmente la più traumatizzata da questa vicenda. Lei non è mai riuscita a elaborare il fatto di essere stata portata via da casa sua. Questo era un tema costante, insomma, l'ha proprio vissuta molto molto male. Qui ho nominato la risiera di San Sabba. Io in realtà non credo proprio, insomma, che mia mamma sia stata portata alla risiera di San Sabba nel momento in cui è andata profuga, però probabilmente più in alto, dove c'erano i campi profughi, sì, quindi non nel campo di concentramento, ma negli alloggi che erano destinati alla sulla Basovizza, insomma, no? A ospitare i profughi. Nomino però lo stesso la risiera di San Sabba perché altri miei parenti ci sono andati, persone che hanno fatto proprio la resistenza e che hanno avuto sempre anche questa oscillazione tra Italia, insomma, in qualche modo tra Italia e Slovenia, perché era tutto un stare di qua di là dal confine. Poi hanno fatto questa scelta, sono stati incarcerati nella risiera di San Sabba, sono stati torturati, non si sa più nulla di loro, insomma, quindi sicuramente anche nella storia familiare c'è questa sofferenza. Mia madre è andata via come profuga, è stata portata a Bolzano, è arrivata qua che non sapeva, a differenza di mia nonna che aveva fatto le scuole italiane, non sapeva una parola di italiano, e quindi per lei è stato molto duro l'inserimento a Bolzano in quelle condizioni, perché non avevano nulla. Lei praticamente, diciamo, ha avuto un po' la stessa sorte della bambina con la valigia, no? La Elegia Hafner, se vogliamo, anche lei in un sottoscala sotto i portici, in condizioni veramente di povertà assoluta, perché non avevano aiuti, essendo anche sloveni, c'era già anche questa situazione qua, e quindi è stata assolutamente traumatizzata da questo. E questa cosa l'ha vissuta ogni giorno della sua vita, per questo alla fine dico adesso sei tornata a casa, perché le ultime parole che lei mi ha detto erano per la casa sua. Lei ha avuto un ictus, io l'ho vista la mattina, parlavamo della sua casa, come sarebbe bello tornare, che forse noi riuscivamo a ricostruire, eccetera eccetera. Dopo 2 ore mi hanno telefonato che la mamma non c'era più, e quindi è stata proprio veramente l'ultima parola. Però questo è anche la frase di dire siamo noi come allora esuli. Io credo che questo tema, questo sentirsi esuli, sia una cosa che va anche nelle generazioni successive, non finisce lì questa esperienza, no? Questo tuo bagaglio familiare anche così forte, come ha poi permeato il tuo modo di essere insegnante, di essere docente, il tuo modo di porre gli argomenti ai ragazzi? Ma il mio modo è stato quello di essermi dedicata sempre al tema, bene o male, anche del plurilinguismo o della conoscenza della cultura dell'altro. Questo è stata una missione quasi, in qualche modo, come del resto anche il fatto che oltre a essere di ruolo, sono insegnante, insomma, di ruolo con tutte le abilitazioni nella scuola italiana, ho voluto anche esserlo nella scuola ladina, perché in qualche modo riuscivo in questo modo a ampliare questa cosa che io ho sempre sentito come terribile, di dover vivere in un contesto con 3 sistemi scolastici distinti. Devo dire che questo è stato un successivo trauma nostro familiare, soprattutto per mia mamma e per mia nonna, il fatto di avere la dichiarazione etnica, dover fare la dichiarazione etnica obbligatoria nel 1980, e loro si sono rifiutate. E io avevo 14-15 anni, ricordo quanto già come studentessa allora lottavamo per non avere queste scuole distinte. Le famose gabbie. Alexander Lang l'ho conosciuto bene, anche se avevo 14-15 anni, proprio perché eravamo inseriti in tutto questo contesto qui. Però per loro, ecco, questo voglio anche dire, il 1980 ha segnato proprio un'altra linea di confine, perché erano persone che uscivano da una dittatura, uscivano da un contesto in cui erano obbligati a parlare italiano, avevano combattuto, avevano fatto la resistenza, e il fatto di trovarsi in un altro luogo dove erano stati portati obbligatoriamente come profughi e dover fare una dichiarazione etnica e dichiarare quello che loro non erano, quello che non si sentivano, per loro è stato veramente, veramente traumatico. Quegli anni me li ricordo molto bene, quanto forse anche da noi o da queste persone che non erano sole, ce n'erano anche delle altre in quel periodo, poi sono andate via, questa cosa sia stata grave. Infatti ogni tanto nomino alcuni personaggi come Sgaga, Stanislav Sgaga, ogni tanto lo nomino, che lo conoscevamo molto bene, lui si era rifiutato di dichiararsi, infatti non ha potuto proseguire la sua carriera politica, è dovuto andare via. No, e quindi ecco questo fatto, ecco, mi permetto, questo fatto che ha tanto segnato, io ho sempre in qualche modo cercato di andare oltre, no? Di superare, senza riuscirci, perché purtroppo non siamo riusciti tanto a superare queste cose qua, però a questo avrei dedicato, ho dedicato con tutte le forze che ho potuto, la mia attività anche di insegnante. Quindi tramandare la storia, far ragionare i ragazzi sulla storia, sì, su quello che è stato e sulle analogie anche, sì, perché hai parlato del confine orientale con analogie, appunto, con anche analogie, quello che è successo anche qui in alcune, sì, parti. Perché anche da un punto di vista, diciamo, dell'insegnamento della storia come storica, io mi sono resa conto sempre più col passare degli anni che stiamo raccontando una storia molto stereotipata, ossia stiamo raccontando un po' sempre le stesse cose, no? E anche vedere ad esempio la storia o quello che è successo qua in questi anni dalla prospettiva di queste persone, come io le ho conosciute, dà un'altra luce su tante cose, anche su quella che era la provenienza dei profughi che sono stati portati qua, o quella che è stata la vita, insomma, anche di questa città, come si è creata questa comunità, voglio dire, così composita, e tutte queste cose sono cose anche che non sento, no? come non sentivo le vicende che sono avvenute per colpa del fascismo in Slovenia, così non sentivo in questi anni ricordare queste cose, e allora mi sono sentita di scriverle. A me hanno condizionato moltissimo la visione anche della politica, della realtà, dico politica in senso molto lato, in questo senso, e di questa comunità, di questa, insomma, nostra provincia, e quindi così raccontarle mi sembra anche interessante, diciamo. Tu hai scelto in questo libro è un libro di poesie, quindi adesso stiamo raccontando, ti stiamo conoscendo, stiamo parlando un po' tutto tondo, però tu hai scelto la linea poetica, quindi tu hai, sì, scelto proprio anche il verso libero per raccontare, mm-hmm, raccontare un mondo interiore che traspare, però a volte magari necessita di spiegazione. Quindi io ti ringrazio perché, sì, con la spiegazione anche si riesce a capire meglio, sì, a capire meglio le poesie. Magari leggiamo le tue vesti. Sì, e le tue vesti, volentieri. Sì, grazie. Sì, okay. Piacere di leggerle. Dunque, devo trovare la pagina. Allora, 39. E poi di seguito te lo metto io. Sì, grazie. Allora, leggo io questa, uh-huh, quindi Le tue vesti. Le tue vesti è un'altra poesia dedicata, nata nel momento in cui ho perso mia madre. Le tue vesti. Le tue vesti ora porto, sì, come reliquia, come un'urna di tele e di intrecci azzurri di cielo, che i tuoi occhi erano quelli del fiume, altri miei, e tu questo non l'hai perdonato. Fu per me colpa antica, espiata con rabbia e dolore, perché, madre, che i tuoi panni allora io sempre ho indossato, con cura e pazienza, attendendo nell'ombra silente il tuo sguardo. Ferragosto di caldo e cicale, al torrido giorno la sera è seguita. Tutto tace e scolorano piano le nuvole viola in laguna. Un filo di vento leggero soltanto increspa la notte di acque tranquille. Così aspetto, sospesa, il moto dell'onda che scivola lenta sul cuore. Parlare di poesia, intrecciare la poesia all'attività di insegnante, all'attività di educatrice, mi viene da pensare, fa ricordare una conferenza alla quale avevo assistito in questi ultimi anni, dove un illustre linguista, che adesso, scusatemi, non mi ricordo il nome, parlava proprio della poesia nell'ambito della gioventù, perché c'è una rinascita della poesia Ci sono i concorsi di poesia, il Poetry Slam, che sono molto molto apprezzati e frequentati dai ragazzi. E questo linguista faceva addirittura un paragone con le canzoni di musica rap, non il trap violento, intendiamoci, ma la musica rap dove c'è molta attenzione, può piacere o non piacere, ma c'è molta attenzione al verso, al suono anche delle parole. Tu questo l'hai verificato a scuola, Simonetta, che i ragazzi adesso sono più aperti anche verso questa modalità di espressione? Sì, io penso che siano sempre stati aperti. Cioè, io credo veramente che la poesia sia una forma molto spontanea di comunicazione e che veramente la lingua in generale parli nel modo più completo attraverso la poesia, no? Nel senso che ha questa unione profonda tra suono e significato, diciamo, no? E parola. I giovani oggi, anche anni fa, ma forse più negli ultimi tempi, si dedicano molto alla poesia e amano la poesia. Tantissimi partecipano ai concorsi letterari, io partecipo molto ai concorsi letterari e sempre vedo dei ragazzi anche di 18-20 anni che vengono premiati, questa cosa mi fa molto piacere. C'è una rinascita in generale anche tra la popolazione della poesia, della letteratura, forse perché adesso abbiamo dei mezzi per pubblicare un po' più facilmente, però io questo lo vedo anche positivo, dà movimento alle cose. Anche attraverso la poesia, anche attraverso la musica, sicuramente, ma i giovani hanno sempre usufruito di poesia attraverso la musica, attraverso i testi delle canzoni, quindi già automaticamente. Un certo tipo di musica è molto, secondo me, vicina a una metrica quasi tradizionale. Ci sono delle canzoni, ad esempio ogni tanto porto delle canzoni di Manu Chao in classe, che hanno dei versi all'interno che sono veramente degli endecasillabi perfetti o dei settenari, proprio perché sono molto ritmati, e questo aiuta forse così anche ai ragazzi ovviamente a avvicinarsi. E d'altra parte tanti giovani scrivono anche canzoni e le incidono grazie anche alle nuove tecnologie. È anche un non vergognarsi anche dei propri, sì, sentimenti, metterli a nudo, che magari in alcuni periodi, forse io mi ricordo, forse anche persone qui presenti hanno scritto poesie da molto giovani, salvo poi nasconderle nel diario e vergognarsi perché non si voleva, sì, un po' mettere a nudo i propri sentimenti, i propri sentire. Sì, adesso c'è anche un tipo c'è una certa libertà, insomma, no? Nei testi, che permette, diciamo, anche una maggiore espressività, forse, in questo senso. Andiamo avanti con Sere Istriane. Abbiamo nominato l'Istria, luoghi ai quali tu sei molto legata. Per quante volte ormai non le conto più, metto i piedi nell'acqua calda, però isola di Cherso, anno 1972, il mare limpido, le murene, un tempo fa. Erano lunghi i viaggi di luglio, allora. Sulle gambe del nonno si dormiva, si cantava, si giocava. Si trascorreva il Veneto, che era una distesa placida di grano turco e di frasche e di campi di bocce. E poi la frontiera. Iniziava un mondo di sassi e di cielo. Le isole erano file interminabili di muretti bianchi e strade polverose. Ma chi li costruirà? Chiedeva la nonna. E l'acqua era fredda allora. Ah, nonna, ho saputo. Li hanno costruiti le donne. Adesso i muri sono crollati, tanti muri. Un bene? Certo, sempre magiche le sere istriane. Ecco, questa è una poesia che ho dedicato alla questione, diciamo, dell'Istria e dei tanti, insomma, esuli che mi è capitato anche di conoscere, a parte quelli che sono qua a Bolzano, che sono veramente tantissimi, alle volte non lo sappiamo, ma abbiamo tantissime famiglie di queste origini. ma anche quelli che ho incontrato nel corso della vita. E devo dire quanto è profonda, insomma, ancora questa sofferenza e quanto è sentito, insomma, il dramma di questi esuli. Ormai tra poco abbiamo il 10 febbraio, quindi io ogni volta cerco di ricordarlo anche nelle scuole, non siamo in tanti che lo facciamo. Tanti di queste persone adesso hanno una certa età, purtroppo tante le stiamo perdendo, ma io credo che anche nei nipoti e nei figli sia rimasta molto molto forte questo dramma, questa volontà di tornare, purtroppo questa impossibilità di tornare, perché tornare veramente sia in Slovenia, l'ho provato personalmente che avrei voluto trasferirmi sia in Slovenia che in Croazia, è molto difficile ed è anche molto ingiusto che non vengano date possibilità ai figli e ai nipoti in qualche modo di ritornare, anche se non... quello che c'era, quello che avevano non c'è più, però magari comunque la possibilità di ritornare almeno nei luoghi non viene data, è difficilissimo, sembra è più facile trasferirsi in Germania, che io l'ho fatto, che trasferirsi in Slovenia e in Croazia, a meno che uno non ci vada per vacanza, voglio dire, ma se si vuole stabilire, e questa è una cosa secondo me a livello europeo, oltre che italiano, molto molto ingiusta e molto sbagliata. Hai detto infatti gli ultimi, cioè ci sono gli ultimi che ci stanno raccontando, dai quali riusciamo a sapere dalla viva voce proprio sì. Quello che è successo oggi, giorno della memoria, anche gli ultimi che sono stati nei campi di concentramento, ci chiediamo sempre e dopo sarà... due righe sui libri di storia, esatto. Sarà accomunato a tutte le altre vicende dei secoli passati, cioè esatto. Il dubbio rimane anche con la perdita delle testimonianze dirette. La perdita delle testimonianze, esatto. E sono due vicende, sul giorno della memoria si sta affievolendo la sensibilità, e questo lo vedo molto anche all'interno delle scuole. E su quella del 10 febbraio purtroppo non c'è mai stata sufficiente attenzione, perché si è trattato poco, si è trattato in modo super, insomma fa parte della memoria dimenticata e della storia che si è voluta dimenticare, no? Tuttavia in questi ultimi anni mi è accaduto spesso di riflettere su queste cose, anche adesso col fatto che la Croazia è entrata a far parte dell'Europa, il crollo di varie frontiere, tutte queste vicende alterne che ci sono state fanno ogni volta qualche modo tornare alla mente, no? Questo tipo di frattura che c'è stata, no? E quanto ancora comunque, quanto legame c'è con questi territori. Secondo me, io veramente spererei che ci fosse un pochino più attenzione ancora per queste cose, non è mai troppo tardi per rimediare in parte. Simonetta, io volevo chiederti anche il tuo rapporto con la natura, perché alcune poesie le dedichi proprio alla natura. Mi hai detto che trae ispirazione proprio. Trago ispirazione, diciamo che questa è la mia grande maestra, se vogliamo, perché sì, io ho avuto la fortuna in tutte queste vicende appunto di spostamento di vari confini, e per questo ne parlo, perché li ho conosciuti bene oltre a questo confine italo-austriaco, che grazie ai meriti di mia nonna, insomma, che gli sono stati poi riconosciuti anche a livello addirittura nazionale, insomma, il suo coraggio, posso dire, no? E che ha avuto la possibilità di mantenere le proprietà. E qua siamo un po' sul tema della proprietà, quanto sia importante la proprietà come eredità, non solo materiale, ma anche morale. Per cui è riuscita a mantenere in qualche modo il legame della casa, al di là del confine, insomma, quindi in Slovenia. Quindi da bambina io vivevo là, ho avuto la possibilità di vivere nell'ex Repubblica Socialista negli anni 60, 70, poi 80, ho visto tutta la trasformazione anche di questi territori, di questi confini. Questa è stata un'esperienza molto, molto forte, perché ogni anno fare il passaggio, io vivevo molti mesi, perché anche le vacanze erano lunghe, lì, per poi tornare qui, ho proprio vissuto due mondi diversi e tutto il passaggio che c'è stato in questi decenni, che è stato epocale, no? Da un mondo che era totalmente dominato dalla natura negli anni 60-70, cioè proprio passare la frontiera era andare in un altro universo, ed era un universo, io me lo ricordo, immerso nella natura, cioè non esistevano macchine, non esistevano fabbriche, non esisteva, era la realtà di 200 anni fa. Con il pozzo dove si prendeva l'acqua, con il bagno fuori casa, con i materassi fatti di foglie di grano turco, con, senza elettricità in casa, senza acqua in casa, ma di una dignità, di una pulizia, di un lindore eccezionale, di una tranquillità eccezionale, in paesi che vivevano della loro sussistenza, come sempre fatto, quindi gli animali, la campagna, eccetera. Questo fatto di aver vissuto questo fino almeno al 1976, e voglio ricordare che adesso tra un po' si celebrerà, si ricorderà il terremoto del Friuli Venezia Giulia, cosa è stato? Anche questo un'ulteriore frattura in quel mondo, in quel territorio che però si è sentito fino qua. E quindi quest'altro dramma che è stato, che si è sentito anche al di là del confine, diciamo, anche lì le case sono distrutte. Però ecco, diciamo, questo fatto mi ha fatto vivere per tanti tanti anni, per tutta la mia infanzia, perlomeno immersa nella natura, e quindi questo probabilmente mi ha segnato molto. La solitudine è nella natura, però la solitudine nella natura non è mai una solitudine vera. Perché per questo l'ho intitolato "E tutto tace". Nella natura si sentono delle voci, si sentono delle voci e si riesce a rimanere in contatto anche con persone che magari non ci sono più, non lo si può fare in altri contesti. Per questo amore profondo, segnato anche da questo fiume, il fiume Isonzo è un fiume molto bello, molto dominante, con questa veramente bellezza estrema del paesaggio, credo che sia stato per me qualcosa che mi abbia molto profondamente segnato e abbia condizionato un po' tutto, insomma. Per questo dedico molte poesie alla natura. A proposito di natura, di nebbia? Di nebbia. Di nebbia. Amo la nebbia che cala negli orti e confonde le strade di sera. Amo la nebbia dei miei anni migliori, che respiravo e nutriva la rara gioia. Amo adesso la nebbia di questa città, nei giorni di festa ritrovati. Sì, questa poesia è dedicata alla nebbia. Quando ogni tanto parlo della nebbia mi dicono sì, la nebbia, perché forse piace essere nascosti. A me dà la sensazione opposta, perché la nebbia mi dà una sensazione invece di grande libertà. Cioè, nel senso di come avere intorno a me tutto uno spazio non dominato dall'essere umano, ma solo della natura, e quindi di avere ampia, ampia libertà, no? Quindi la natura, poi il fatto di non vedere un pochino come, insomma, leopardianamente l'infinito, mi fa sempre, diciamo, immaginare quello che c'è al di là. Questo è l'effetto che fa la nebbia. Poi collego la nebbia effettivamente a luoghi che amo molto, che amo molto. E quindi ho nominato inizialmente dei luoghi, appunto, diciamo, di nuovo legati a questi territori dove comunque l'acqua è dominante, no? C'è questa dominanza dell'elemento dell'acqua attraverso i fiumi, i laghi e anche la nebbia. Il secondo, diciamo, la seconda strofa è dedicata ai miei anni della giovinezza. Io ho studiato a Bologna, anche a Freiburg, e anche lì dominate dalla nebbia, perché io comunque non vivevo in città anche in Bologna, mi sono presa una casa in campagna che era veramente dominata dalla nebbia anche lì, quindi lì comunque un'altra esperienza formativa. E la terza, quindi la giovinezza, quindi l'esperienza della giovinezza, eccetera. E invece la terza, l'ultima strofa, l'ho dedicata a questa città nei giorni di festa ritrovata, perché in tutto questo nostro girare, io poi pochi anni fa mi ero trasferita a Lubiana, dove pensavo di rimanere più a lungo, quindi la capitale della Slovenia, sono dovuta rientrare adesso per alcuni motivi, però mia figlia, ad esempio, è rimasta là. Anche Lubiana è una città che amo moltissimo e mi ricollega di nuovo alle questioni familiari. Lì si sono trasferite le mie figlie e quando vado là io sento questo senso di festa ritrovata, perché mi ricollego alle radici familiari, insomma. E quindi così. La nebbia ha fatto anche qui da filo conduttore dei miei luoghi del cuore. Mi piace, perché quando ci siamo conosciute al telefono l'altro giorno, io ho preso diligentemente degli appunti, io mi sono scritta curiosa, eclettica, perché è veramente, ha spaziato in tantissimi campi, e girovaga anche, sì, dobbiamo aggiungere anche il girovaga. Quello è forse l'elemento più importante, questo fatto di essere sempre vissuta tra due mondi, veramente penso, ma fin da appena nata, io penso di aver cambiato 30-34 case a livello di traslochi, Amo moltissimo spostarmi, io dico quando i traslochi leggo, sono le cose più stressanti, per me sono le cose più rilassanti, mi sento così nel mio elemento naturale e dopo un po' mi piace ripartire, sì, però ho sempre dei punti di riferimento, diciamo, dove poi torno. Prima di chiudere con un'ultima poesia, volevo tornare sui tuoi lavori, perché tu hai scritto narrativa, quindi poesie, articoli per giornali, sei appunto spazi in tanti campi, e con il tuo libro Freddo in noi, racconti a Nord-Est, che eventualmente è qui sul tavolino per la consultazione, il libro è stato anche proposto al premio Strega recentemente. L'anno scorso, sì. Ci puoi raccontare anche brevemente di questo libro? Sì, questo è un libro invece di racconti, dove racconto in parte, ecco, queste vicende familiari, in parte altri racconti che sono sempre dedicati prevalentemente al territorio del Nord-Est. Come anche qua filo conduttore hanno la storia manipolata o dimenticata. Ecco, una cosa che a me sempre, diciamo, ha molto colpito è il fatto che ci siano stati tanti personaggi nella storia veramente significativi, importanti, impegnati, dotati anche culturalmente, che in qualche modo non hanno avuto il premio o il riconoscimento dovuto per vari fattori culturali, storici, per sfortuna, eccetera. Quindi questo è stato un pochino i dimenticati della storia, i dimenticati della società che ho voluto le cui storie ho voluto raccontare in qualche modo, ma sono dedicati appunto a questo territorio, quindi ho voluto fare la storia di questo territorio Alto Adige e del confine orientale, un po' diversa da quella un po' che raccontiamo sempre, quindi vista da altre prospettive, e un pochino anche riabilitare personaggi che non hanno avuto abbastanza fama o che per vari motivi non hanno potuto avere voce o non si è voluto che avessero voce, perché tante storie sono scomode. E quindi è anche giusto magari raccontarle. Vorrei leggere l'ultima poesia, E io andrò, magari se ci fai un'introduzione, sì. Poi la leggiamo. Beh, io andrò è una poesia dedicata anche qui un po' agli abbandoni. Vedo che mi rendo quasi conto adesso, no, quanto ci sia il tema dell'abbandono. Sono stati anni effettivamente di perdite, quindi questo ha un po' dominato questo libro. E io andrò è una poesia dedicata a delle persone, una persona in particolare a cui ero molto legata nei periodi in cui ho vissuto in Germania, ho vissuto molti anni in Germania, come dicevo, ed è un periodo per me stato anche molto molto formativo, molto importante, ho insegnato, lavorato, eccetera. E questa poesia è un po' dedicata a ritrovarsi. Io credo che quando una persona si perde o la perdiamo, veramente esiste un modo poi in qualche modo di rimanere in contatto o di ritrovarsi, e questo collegamento, questo dialogo è molto molto importante. Io tengo molto a mantenerlo vivo e costante, e secondo me c'è. E io andrò quando le albe confondono i toni e sfumati nel cielo di indaco inflesso, nembi di nebbia diradano al piano. Andrò percorrendo tragitti, distanze e paesaggi. Cercherò la tua mano. E tu allora, levando la fronte, reclina quanto è stato il tempo trascorso. Sarà allora uguale e sospeso. In quel giorno perfetto canteranno gli angeli la nostra canzone. Sì, e questa mi piace un po' come conclusione, perché questo maestro elementare di cui abbiamo iniziato appunto raccontando, ecco, c'è una cosa che voglio dire un po' particolare. Era un poeta anche lui, che ha scritto insomma poesia, ha dedicato scritti a varie cose, e quando ho terminato questo libro cercavo delle testimonianze, dei documenti sul poeta Caser, e allora ho diciamo, ho girato un po' le biblioteche di Bolzano, la biblioteca civica, poi sono venuta in questa biblioteca e proprio in questa biblioteca ho ritrovato degli scritti del mio maestro Cesare Guglielmo, di cui non conoscevo l'esistenza, quindi stranamente, e ho trovato questi scritti anche autografi degli anni 70 che erano qua in questa biblioteca. Allora, incuriosita, dico, no? Li guardo, li apro, proprio ero lì, ero proprio all'ultimo capitolo di questo libro e trovo delle sue poesie dedicate agli angeli. Quindi lui ha scritto molto sugli angeli, ha riflettuto molto sugli angeli, però scriveva anche dei suoi incontri appunto con questi poeti, così diciamo questi personaggi così importanti. E andando avanti nella lettura, parla di scuola e vedo che mi nomina, cioè c'è il mio nome insomma all'interno di questi scritti. Io dico, santo cielo, dico, quanto tempo è passato, no, per questo dico quanto tempo è passato, perché 40 anni eccetera, e nomina me e nomina anche delle altre sue scolare, facendo delle riflessioni su di me, addirittura dedicandomi una poesia che era una bambina e nominandomi nella schiera dei suoi angeli. Questa cosa mi ha lasciato allibita, perché dico, poi io non è che sia una persona religiosa, dico, ho una mia religiosità personale, però non, sugli angeli non ho mai riflettuto particolarmente. E lei c'è scritto, nella schiera degli angeli c'è Simona, poi lui mi chiamava Simona e addirittura sul registro mi scriveva Simona, perché diceva, nessuno, guarda, io mi chiamo, sono all'anagrafe Simonetta, guarda che nessuno ti deve mai sminuire, nessuno deve mai sminuire la tua importanza, mi dicevano. Ecco, anche questa è una cosa che ho rivalutato leggendo, perché mi ha colpito, io non me la ricordavo più. Lui scriveva, siccome non eravamo tanto burocratici una volta, Simona sul registro, no? Oggi mi farebbero un ricorso dopo due secondi. E Simona così, Simona eccetera. E tra la schiera dei suoi angeli, quindi tra gli scolari che in tutta la sua carriera gli erano più vicini, erano più, si era più insomma legato, e dico, questa persona che ha dedicato una poesia che trovo nel 2024, a distanza di tanti anni, dedicata a me, di cui non sapevo nulla, e per questo ho voluto, perché ho detto, non avrei mai immaginato una cosa simile, mai di essere messa in una schiera di angeli, perché, insomma, così, e per questo c'è riferimento agli angeli. E insomma, questo chiude un po' il cerchio, visto, sì, che il libro lo inizi proprio parlando, esatto, del tuo maestro, dell'importanza, esatto, del tuo maestro. È stata proprio la chiusura di un cerchio con cui ho chiuso anche questo, perché mi ha veramente impressionato questa cosa. Andavo a parlare del poeta Casera, invece poi ho chiuso con entrambi, lui e il suo conoscente che era mio maestro elementare. Io ringrazio, grazie Simonetta, grazie. Lucchi, con il libro È tutto tace, edizioni Bertoni, e anche gli altri due libri, Linea di confine e Freddo in noi racconti a Nord-Est, chi vuole consultarli sono sul tavolino. Grazie alla Biblioteca Claudio Augusta per questa opportunità e grazie a voi per la partecipazione, una buona serata, grazie. Grazie a tutti. Chi vuole anche acquistare il libro eventualmente è qui sul tavolino. Grazie dell'attenzione ancora, e veramente mi ha fatto un grande piacere parlare con voi.